È con noi Livio Curatella, autore del libro Facce e Martello, che sarà presentato alla libreria Kabuk a Roma il prossimo 3 maggio. Livio, benvenuto. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, Ci racconti un po' di questo lavoro? questo è un lavoro che è nato da un'officina dove io lavoravo e ho pensato che l'incontro sociale tra le persone che entrano in officina e il protagonista, Tito, che usa il martello, uniti fanno faccia in martello. E quindi racconto queste storie che entrano continuamente in officina e si scambiano degli atti di vita vissuta, insomma, chiamiamola così. Senti, la zona è Quadraro. La zona, sì, è tra il Quartino e il Quadraro, è una vietta dove io ho lavorato molti anni e quindi ho raccolto queste testimonianze romanzate, chiaramente. Quanto tempo ti ha richiesto questo libro? Guarda, io dico sempre che ho scritto questo libro da terzo medista, nel senso che avevo la terza media quando l'ho scritto. E ho cominciato nel 2003, poi nel 2010 era, diciamo che era finito, perché chiaramente lavorando senza conoscere bene l'italiano e conoscendo solo il romanesco è stato un po' più difficile metterlo a posto, no? E poi dopo è uscito, cioè ho cominciato a leggerlo nelle piazze non avendolo mai edito. Le persone erano interessate perché è una storia che viene dal dentro. Chiamiamola così, la Senti, chiamo più così. o meno, Livio, quanti ritratti hai messo insieme? Guarda, i personaggi sono più di 40. Ah, beh. Strano perché le pagine sono 130, non so tantissime, 115 anzi. Le pagine non sono tantissime, però i personaggi che entrano e escono in questa officina, a parte i due protagonisti che sono i due fratelli, Tito e Flavio, e il padre che fa da bilancia, sono in circa 40. E da questo è nato un progetto che si chiama anche Facce e Martello con i ragazzi della squadra Rosselliri che hanno fatto le foto del quartiere e delle facce del quartiere. E io ogni volta che faccio una presentazione vi porto queste foto ingrandite del quartiere e delle facce. Senti, che quadro viene fuori di vari personaggi? Beh, i personaggi sono veramente diversi, dentro il romanzo c'è l'amore, c'è la pazzia, c'è il disadattato, c'è l'immigrato che io poi non chiamo mai così immigrato perché fa parte già della comunità quando entra in officina, no? Certo. C'è lo scambio del lavoro, c'è uno sguardo di Roma dall'interno, no? Dalle ginocchia per terra che si sporcano perché si lavora, dalle mani tagliate e rotte, no? Non so, da una tanaglia perché ti sei fatto male mentre lavori. C'è questo sguardo qui, è uno sguardo molto, secondo me è importante perché è uno sguardo di scambio tra chi lavora e abita nel quartiere e tutti gli altri abitanti. Senti, considerato che hai cominciato questa avventura diversi anni fa, com'è cambiato nel frattempo il quartiere? Il quartiere anche dal romanzo si vede che cambia. Noi cominciamo dal quartiere dalle baracche del Mandrione e raccontiamo quello che era il Quadraro, il Mandrione negli anni 70 e poi ha un'evoluzione, no? Le Sì. baracche spariscono, si mette un po' a posto il quartiere e le persone invece continuano a scambiare perché il quartiere cambia esteriormente ma interiormente rimane lo stesso. Continuano a scambiare le persone e questa è la cosa importante. Qualcuno lo chiama un romanzo sociale, però non lo so se è così. Senti, Livia, hai detto che prima di editarlo facevi delle letture pubbliche e adesso che l'hai editato continui anche con le letture. Sì, io faccio, allora cerco sempre di non annoiare, cioè le nostre presentazioni sono più o meno, è uno spettacolo. Io andavo nelle presentazioni e mi annoiavo a morte quando sentivo questi che leggevano, una cosa incredibile. Allora dico, no, 2 minuti, facciamo capire di che parla il romanzo e poi mandiamo una cartolina sonora di Alessia Rapone, per esempio, che fa cartoline sonore sul Quadraro oppure sul Torpignattara. Poi c'è un po' di musica. E poi se c'è bisogno, se il pubblico lo vuole facciamo un po' di dibattito. Poi ci si beve un bicchiere di vino e si parla tra noi. Penso che sia la cosa migliore, se no se diventa noioso non mi piace. Senti, Senti Livio, su internet c'è una pagina Facebook, un sito internet per saperne Allora, di sì, più? abbiamo chi più ne ha Arte Edizioni, che è la casa editrice dove il libro si può comprare. Poi io non sto sulle grandi distribuzioni, ho chiesto di non stare sulle grandi distribuzioni perché voglio che le librerie lavorino e le persone si incontrino in libreria. Quindi io lascio questi libri nelle librerie dove faccio le presentazioni e le persone lo possono comprare lì, in questo caso Kabuk a Via degli UEC 69, oppure, non so, a Via Enrico Davila. C'è un'altra libreria dove andrò, a Centocelle, a Pecora Elettrica, per esempio. E quindi, oppure proprio sul sito della casa editrice. Ok, allora ricordiamo l'appuntamento con la presentazione del libro Faccia e Martello di Livio Curatella alla libreria Kabuk a Roma. Il Kabuk, prossimo libreria nuova, sì. Sì, prossimo 3 maggio. Livio, io ti abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a te Federico e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao. Tante grazie.